Allora, quando sono le 17, 5 minuti, come avete sentito oggi, siamo focalizzati sulla Colombia, ma insomma a monte c'è l'Enel che ci obbliga a parlare di tanto orrore che in Colombia si sta sviluppando, quindi apriamo così questo appuntamento con le Schiene del Sol, che oggi appunto altro non poteva fare che ospitare questo redazionale o comunque vivere in simbiosi con questa radio, altrimenti non potrebbe essere. Siamo qui con Giorgio e appunto insomma che ha... non solo la sua esperienza, ma che insomma ci darà delle nozioni fondamentali per leggere un po' quello che di cui parleremo. Come sapete, oggi c'era questo presidio Vergine Margherita sotto la sede, diciamo, quella ricca, quella dei lucida dell'Enel, quella dei pezzi grossi, perché martedì appunto sono stati repressi dei pescatori del Rio Magdalena in Colombia, perché l'Enel, con i vestiti dell'Endesa, che è un po' insomma diciamo la sorella dell'Enel spagnola, deviavano appunto questo fiume, devastando territori, smobilitando e desplazando popolazioni per appunto, come dicono loro, per puntare verso il progresso. Questo è quello di cui vi parleremo oggi. Io quindi passo la parola a Giorgio, che casomai ci fa un'introduzione, poi vi proporremo la prima corrispondenza, la corrispondenza che abbiamo registrato con il presidio, e intanto ci metteremo in contatto con un compagno che è lì in Colombia e che appunto insieme alle popolazioni locali sta resistendo. Beh, direi che innanzitutto appunto ricordare questa esperienza di lotta, che non è l'unica certamente in Sud America, ce ne sono state e ce ne sono tuttora altre di analoghe e contro insediamenti di un certo tipo, in particolare insediamenti di centrali idroelettriche, perché con la costruzione di grandi dighe comportano un impatto sul territorio notevolissimo, dato che la diga va a costituire un bacino piuttosto grande e allagando ettari e ettari di territorio comporta la destinazione, lo stravolgimento proprio delle economie locali, molto spesso comporta anche la deportazione vera e propria delle comunità locali che abitano nella zona. L'iniziativa che c'è oggi sotto l'Enel è finalizzata a esprimere solidarietà alle lotte, in questo caso di più comunità che si trovano in Colombia e precisamente nel dipartimento di Huila, che è poco a sud di Bogotà, un 200-300 km a sud di Bogotà, per dare un'idea a chi ci ascolta di quale luogo stiamo parlando, di quale regione, eccetera, eccetera. Parliamo ovviamente della Colombia, e in particolare della Colombia parliamo di una zona che è non distante dalle sorgenti di uno dei più importanti, del secondo fiume della Colombia, che è il Rio Magdalena, che sorge tra le due cordigliere andine che si trovano in quella parte del paese, quella orientale e quella centrale. È una zona che è letteralmente scavata da questo fiume, da questo Rio Magdalena, che poi sfocia nell'Atlantico dopo un percorso di circa 1500 km. È uno dei grandi fiumi della Colombia ed è un fiume importante che appunto da vivere letteralmente insomma a parecchie popolazioni. Su questo fiume ci sono già stati insediamenti produttivi di centrali idroelettriche, e quello che va detto subito per questo progetto di cui stiamo parlando, che si chiama El Quimbo, dalla località dove è, ma si trova nel comune di Gigante, un paesino che si chiama Gigante, lì ci sono due o tre paesini interessati, uno è Gigante, l'altro è Garzón e l'altro è Algado, uno sulla riva destra, uno sulla riva sinistra del fiume Magdalena. E da questo poco distante, poco più a monte diciamo del fiume, c'è già un insediamento enorme, praticamente il doppio di quello che si vuole fare adesso, costruito dalla stessa ditta che sta costruendo, che vorrebbe costruire questa centrale idroelettrica, che è l'italiana Impregilo, ed è la centrale di Betania. La centrale di Betania è una delle più grosse della Colombia, c'ha circa 800 megawatt di potenza installata, E inizialmente questi due progetti erano stati previsti in sequenza, cioè uno doveva uno più a monte e uno più a valle, quindi Betania e poi Chimbo più a valle dovevano essere realizzati in modo quasi contestuale, insomma, no? Non nel tempo, ma uno era dipendente dall'altro tecnicamente, nel senso che non si sarebbe fatto un bacino troppo grande per la centrale di Betania proprio per ospitare il secondo progetto. Poi le prime indagini, che risalgono a più di 10 anni fa, di questo progetto avevano verificato che in effetti a valle della centrale di Betania, lungo il corso del Rio Maddalena, non era il caso di costruire un altro impianto, e quindi l'impianto del Chimbo una 10 anni fa era stato scartato per una fattibilità tecnica o soprattutto geologica, perché quella parte della cordigliera andina è composta da rocce piuttosto friabili e quindi che non danno una affidabilità completa per la costruzione di grandi dighe come in questi casi è richiesto. Inoltre, insomma, poi non va mai dimenticato che la Colombia è decisamente un paese sismico, no? A forte influenza sismica, e la stessa zona del Chimbo interessata al progetto lo è decisamente per aver registrato in passato terremoti di una certa rilevanza fino al grado sesto della scala Richter. Quindi tutto nelle prime valutazioni, che risalgono appunto a più di 10 anni fa, questo progetto era stato accantonato proprio per queste difficoltà. Oggi è stato ripreso dall'Enel come padrone principale della società. Qui bisognerà descrivere anche un po' le scatole cinesi che stanno intorno a queste storie. Comunque, per finire di descrivere questo progetto, è un progetto di una centrale che ha una potenza di 400 megawatt, bisognerà costruire due dighe, sono previste la costruzione di due dighe, una che è alta più di 100 metri e lunga 600 metri, mentre una diga più piccola è alta una 60ina di metri e larga 400 metri, e per costruire queste dighe e quindi poter aprire i cantieri e cominciare a costruire la diga di sbarramento è prevista prima la costruzione di un tunnel, che è la prima opera che vorrebbero fare per deviare l'acqua del Rio Maddalena, deviarla e far sì che si possa lavorare meglio. Ma diciamo, interrompiamo questa così descrizione del progetto perché siamo in collegamento con diciamo un posto che non è esattamente semplice da raggiungere, ma noi ci siamo riusciti. Allora siamo appunto con il compagno che vi dicevamo avremmo contattato. Ciao, allora ci senti? Ciao, sì, vi sento, ciao. Ok, allora diciamo, noi un po' stiamo parlando di questo progetto, dell'importanza della portata del Maddalena e di perché viene così puntato poi per tutti questi progetti devastanti, e quindi mi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' invece come sono organizzate le popolazioni locali, come praticano la loro resistenza, da quanto, e quello soprattutto che è accaduto martedì, insomma, abbiamo citato, insomma, gli arresti e così, le cose molto colombiane, diciamo così, che accadono in momenti come questi. Sì, allora, la resistenza contro il progetto idroelettrico del Chimbo viene da lontano, viene da quando hanno iniziato a parlare di questo progetto. Questo progetto è iniziato a entrare, diciamo, in processo di approvazione nel 2007. Nel 2007 si è formata un'associazione dei contadini, pescatori e abitanti della regione che sarebbero stati danneggiati dalla costruzione di questa diga, danneggiati in quanto inondati e quindi sgomberati, quindi avrebbero perso tanto il loro lavoro quanto anche la loro abitazione, diciamo, i loro villaggi, le loro case. E loro hanno portato avanti in questi anni una protesta abbastanza pacifica, fatta di manifestazioni, presidi, e di tanti ricorsi legali. Loro hanno fatto denunce, hanno cercato un'interlocuzione con il Ministero d'Ambiente, che è l'entità governativa che dà la licenza ambientale per permettere la realizzazione di questo tipo di progetti. Hanno fatto varie denunce, hanno ricorso a quello che è una, a quello che è simile al TAR, al Tribunale regionale, diciamo, alle funzioni del Tribunale regionale, alle funzioni del TAR, perché delle operazioni che erano state date intorno all'approvazione precisamente del progetto erano illegali o comunque incostituzionali. Cioè, nonostante costantemente, se da un lato appunto c'è stata questa protesta sempre pacifica e sempre molto legalista, diciamo, se vogliamo dargli questa definizione, dall'altra parte c'è stato tutto questo è rimbalzato contro un muro di gomma. Ogni volta, incluso quando loro sono riusciti a fermare il processo di approvazione, semplicemente il presidente precedente, Uribe, ha firmato un decreto che possibilitava, che cambiava le leggi esistenti e possibilitava, diciamo, la creazione di questo progetto. E fino a tutto questo, cioè, quindi manifestazioni pacifiche fino grosso modo all'inizio dell'anno, quando loro hanno dato un ultimatum, diciamo, allo Stato, nel senso dicendo: noi abbiamo portato avanti la proposta con argomenti, con la forza degli argomenti, con la forza della ragione e con la forza della legalità. Se voi non lo fermate, lo fermiamo noi. Quindi il 3 gennaio hanno iniziato ad attuare forme di lotta, diciamo, più incisive, hanno bloccato il progetto per circa, hanno bloccato il cantiere per circa 15 giorni, dopodiché sono ritornati a un tavolo di negoziazione con il governo, che aveva firmato inizialmente tutta una serie di accordi che prevedevano la revisione e la sospensione del progetto, accordi che non sono stati rispettati. Per questa ragione loro sono ritornati nuovamente a occupare le sponde del Rio Maddalena per impedire precisamente la deviazione del fiume, cioè con la loro presenza fisicamente, cioè loro avrebbero impedito appunto la deviazione del fiume, che è un passo fondamentale verso la costruzione della diga. Praticamente l'impresa che devono costruire la diga, devono costruire un tunnel di circa 500 metri per deviare l'acqua del fiume e poi aprire il cantiere della diga. Esatto, il tunnel l'hanno già costruito, è già pronto il tunnel, adesso devono deviare il fiume di circa, e per farlo entrare dentro il tunnel e seccare precisamente il punto dove Impregilo, che è l'impresa italiana che costruisce, diciamo, l'opera civile del progetto, procederà a costruire, diciamo, il muro che sbarra il fiume. Questo il martedì scorso c'è stato lo sgombero, loro hanno posto la resistenza pacifica e passiva, si sono messi in riva al fiume, che è oltretutto una zona che non era soggetta a sgombero in quanto una zona di interesse pubblico, per la legge colombiana inalienabile, imprescrittibile e inembargabile, cioè nel senso loro è una zona pubblica come le coste come la costa del mare, diciamo. Si sono presi per mano e messi tutti 500 persone sulla riva del fiume, cioè nonostante sono stati aggrediti brutalmente dalle SMAD, che sono gli squadroni antisommossa colombiani, e questa aggressione ha prodotto 3 feriti, di cui uno un ragazzo che ha perso un occhio, precisamente perché le SMAD per cacciarli ha iniziato a tirargli delle granate in mezzo a loro, che sono le granate di stordimento, che però al momento di esplodere lanciano pure le varie schegge. Mercoledì, cioè ieri, nonostante lo sgombro del giorno precedente, loro sono ritornati in un'altra zona a occupare la sponda del fiume, soprattutto i pescatori, perché, cioè, loro giustamente affermano che quello è il loro habitat, la loro zona da cui traggono il sostento, diciamo, per la famiglia, quindi con l'idea di ritornare a pescare e a svolgere la propria attività economica sulla riva del fiume. Tempo circa 10 minuti, Ecco fatto, noi ecco, diciamo, non crediamo mai alle casualità quando si parla di questo. Allora, casomai mandiamo un attimo di musica, proviamo a richiamare al volo e poi torniamo in voce da voi. La ilusión, quiero cantar mis amores, amor por amor, no es amor. En el silencio de la noche, tornando in attesa di poterci ricollegare col compagno che era sul posto praticamente e che quindi ha seguito da vicino le mobilitazioni di questi giorni di queste comunità, finiamo di descrivere quello che è il progetto. Abbiamo detto è una centrale di 400 megawatt elettrici e non particolarmente grande, ma insomma non grandissima, ce ne sono di più grandi e ci davamo a pochissima distanza sullo stesso fiume, a poco più di 30 chilometri ce n'è una che è circa il doppio di potenza, già realizzata e già funzionante. Dicevamo delle perplessità che c'erano state su questo progetto all'inizio, insomma, dell'elaborazione di questo progetto di El Quimbo, data la sismicità della zona e anche la consistenza particolare della roccia, che è una roccia friabile in quel punto specifico, insomma, quindi non del tutto affidabile. Quindi un progetto che era stato inizialmente accantonato e che adesso è stato ripreso. La costruzione della diga comporterà l'inondazione di più di 8.000 ettari di territorio. Si trova la costruzione della diga in una gola abbastanza profonda, proprio perché lì il rio Magdalena, come dicevo, scava letteralmente tra le due cordigliere una grande valle che poi sfocia nell'Atlantico. E con la costruzione della diga questa gola piuttosto profonda andrebbe a colmarsi e a proprio separare letteralmente due dei tre paesi che sono in prossimità del fiume, e in particolare tra Garzon e Algado, che sono due dei paesi interessati dalla costruzione, La società progettista ha previsto la costruzione di un cavalcavia che dovrebbe passare sopra il bacino per tenere in comunicazione questi due paesi, perché le vie attuali di comunicazione verrebbero letteralmente allagate, insieme a alcune frazioni dei paesi, insieme a moltissime siti archeologici, perché altra cosa che va detto, quella è una zona di grande interesse archeologico. Lì c'è, ha vissuto mille più anni prima, avanti Cristo, insomma, una delle comunità, delle civiltà cosiddette precolombiane, che era la civiltà dei Tolima, così si chiamavano gli abitanti di quella zona. E per chi conosce un pochino, interessato a queste cose, poco più a sud, alla fine del, proprio del dipartimento di Huila, andando verso l'Ecuador, c'è il famoso sito di San Agustín. Ma siamo di nuovo in collegamento con il compagno, quindi riprendiamo la diretta. Eccoci qua. Eccoci. Siguiente. Sì. Pronto, sì. Ecco, allora, ecco, sei... no, quello che è successo mercoledì, ieri... esatto. Allora, martedì c'è stato questo sgombero, e poi al quale la gente si è opposta in maniera pacifica, ma ciononostante, diciamo, sono stati tre feriti, di cui un ragazzo che ha perso un occhio, precisamente per il fatto che loro che le SMAD ha sgombrato la gente tirandogli delle granate al lato, praticamente. Le granate che sono dei grossi petardi, diciamo, le granate di stordimento, che però all'esplodere lasciano, diciamo, dei residui, lanciano dei residui, e appunto questi residui feriscono, diciamo, le persone che stanno là. Ieri sono nuovamente pescatori ritornati a occupare il loro luogo naturale di vita e di sostegno economico, che è la sponda del fiume. Immediatamente alle 10 minuti è arrivata la sicurezza privata dell'impresa con Desmato, con gli squadroni antisommossa, hanno proceduto a sgombrare violentemente i pescatori senza dare loro nessuna opportunità né di interlocuzione né di confronto, diciamo. Interlocuzione di confronto. Tra questo squadrone e gli antisommossa sembrava essere diretto da un uomo dell'impresa, dal capo di sicurezza dell'impresa, signor Jaime Oliveira, che è stato visto, diciamo, un minuto prima che avvenisse l'assalto per parte degli squadroni antisommossa, è stato visto, diciamo, al centro e coordinare l'azione con loro. Quindi stiamo parlando di vigilanza privata, insomma, diciamo, per essere chiari. Stiamo parlando della vigilanza privata dell'impresa, di Endesa e quindi di Enel, perché non ci scordiamo che Endesa è una controllata di Enel. E questo attacco è stato particolarmente violento e feroce, nel senso che non hanno dato via di fuga ai pescatori, perché non c'era nessuna... Da un lato, diciamo, dalla sponda del fiume c'erano gli squadroni antisommossa e dall'altro lato c'era il fiume, quindi si sono visti nella necessità la gente di tirarsi al fiume, e in questa situazione l'antisommossa continuava a sparare mentre loro cercavano di lottare contro la corrente, perché è un fiume molto grande e molto forte, e gli sparavano addosso i lacrimogeni, per cui c'è stata una situazione molto... molto drammatica, di panico, nel senso che ci sono state due persone che hanno rischiato l'annegamento, che adesso sono ricoverate con i polmoni pieni d'acqua, diciamo, che però fortunatamente sono state salvate. Oggi la resistenza continua, loro hanno nuovamente occupato lo stesso posto, la riva del fiume, e lo sgombro di ieri è stato uno sgombro è stato dichiarato uno sgombro illegale, perché non c'era nessun ordine di sgombero. Lo stesso l'autorità, diciamo, di polizia del municipio, cioè la somma autorità, che è il sindaco, ha dichiarato che non aveva autorizzato in nessun modo lo sgombero, e quindi non si capisce. Il ministro degli interni ha dichiarato di non aver autorizzato lo sgombero, in quanto lui non può mettere bocca sulla questione del Chimbo, sulla questione della sicurezza, diciamo, della questione di ordine pubblico del Chimbo, perché il fratello del Ministero degli Interni è un dirigente di Endesa, dell'impresa che costruisce l'opera. Ecco. E oggi appunto sono di nuovo là, ritorneremo là, e la sfida adesso è non permettere la deviazione del fiume, non permettere facendo presenza fisica là, impedendo la mobilizzazione dei macchinari e, diciamo, facendo perdere tempo all'impresa. L'obiettivo è che l'impresa perda tempo in attesa dell'ondata invernale che arriverà a momenti, e quindi nel momento in cui già rinizieranno le piogge sarà impossibile deviare il fiume, perché il fiume si ingrosserà molto, per cui questo si gioca tutto su questo, in questo momento si gioca sul tempo. Certo, quindi insomma, diciamo, la resistenza va avanti a oltranza finché appunto la meteorologia non corre in aiuto, ci sarà comunque poi più tempo anche per quelle vie legali, diciamo, che tu mi dicevi, che comunque pongono ancora un'attenzione lì dove si può e non si può. Quindi mi dicevi che appunto oltre alla resistenza poi ci sta anche un iter tutto diciamo per vie legali, che richiede poi comunque il rispetto, non che questo ci dia particolari certezze, ma insomma. Esattamente. Nel frattempo la Contraloria, che è l'organismo di controllo rivolto verso l'autorità, di controllo interno, è un organismo statale che controlla le autorità, e in particolare le risorse pubbliche, ha aperto un'investigazione contro il Ministero d'Ambiente e tutta l'apparato che ha concesso il permesso ambientale per costruire, diciamo, questo mega progetto. Senti, una domanda, quindi, se ne hai notizia, lì c'è anche un'altra attività che è molto osteggiata dalle popolazioni, che è quella della Emerald Energy, che è un'impresa petrolifera affiliata alla BP inglese, che sta, insomma, anche lì dà parecchio fastidio, perché con le rilevazioni sismiche hanno creato veri e propri piccoli terremoti e hanno incasinato letteralmente la vita dei cittadini. Volevo sapere se avevi notizie anche di questa attività, e soprattutto se c'era anche lì, insomma, che tipo di mobilitazione. Allora, la mobilitazione, qui la gente sta tentando di riunire le mobilitazioni, le due mobilitazioni, quella contro Enel Endesa e quella contro la Emerald Energy, anche se sono in due parti diverse. Il paro di gennaio è stato fatto insieme, diciamo, erano nella stessa piazza, la stessa via, diciamo. Loro si oppongono, questa esplorazione petrolifera si realizza nei municipi di Gigante e Garzon, e appunto, come tu dicevi, cioè con l'esplorazione sismica e oltretutto con i lavori di perforazione che stanno facendo, loro mettono a rischio tutto un sistema il sistema idrico della regione, e quindi tanto gli acquedotti che somministrano acqua a questi due municipi di Garzone e di Gigante, come tutto il sistema di irrigazione che che viene usato proprio per coltivare, per le coltivazioni, certo. Yeah. E in più mi sembra che anche le abitazioni ne abbiano risentito parecchio, insomma, di queste attività di prospezione, insomma. Quindi c'è questa convergenza perlomeno di interessi generali, insomma, da questo punto di vista. Sì, c'è una convergenza, ed è interessante perché la convergenza si sta tentando anche sul piano nazionale. Adesso si è formata una coordinazione che si chiama Movimento Rios Vivos, Fiumi Vivi, che riunisce 8 processi di resistenza in difesa dei fiumi come ecosistema e sistema, diciamo, di vita, diciamo, delle persone, che riunisce tutti questi processi di resistenza contro le mega dighe in 8 dipartimenti, 8 regioni diverse del paese. Una cosa che bisogna anche mettere in relazione, che è importante, che tutto questo sistema idroelettrico che verrà inaugurato a partire dal 2014 che darà alla Colombia e praticamente raddoppierà il potenziale elettrico della Colombia, è finalizzato non al benessere o all'accesso all'esportazione, cittadino, all'esportazione da una parte e dall'altra al, al somministro per le miniere. Perché Colombia si prospetta come un paese, una enorme mina a cielo aperto, sono circa 25 milioni di ettari in esplorazione, concessi in concessione a multinazionali di estrazione dell'oro e del carbone, e oltre a quelli concessi alle multinazionali di estrazione di gas e di petrolio. Per cui praticamente la prospettiva che regala questo governo ai colombiani è quella di essere un paese minerario, cioè un ritorno al passato, una riprimarizzazione dell'economia, dove l'economia non ci sarà più, diciamo, economia agricola né tantomeno industriale, perché non si è mai sviluppata, ma per esempio un'enorme miniera in cui le multinazionali europee, canadesi, nordamericane e sudafricane potranno entrare e fare quello che vogliono. Sì, direi che è proprio questo, hai detto bene, insomma, è proprio questo lo scenario che ha innescato principalmente Uribe, ma insomma mi sembra che l'attuale presidente vada avanti speditamente, insomma. Assolutamente. Ecco, non so, colgo l'occasione il fatto che siamo lì con te per dire se hai altre cose da aggiungere, come da qui ci si può muovere. Ti ho detto, oggi c'è stato un presidio, tra l'altro, se lo vuoi raccontare, molto partecipato, in cui insomma sotto l'Enel si sono fatte sentire le voci, insomma, contro questo progetto. Sì, io penso che questa è l'unica maniera in cui possiamo appoggiare anche un piccolo presidio, per quanto possa sembrare insignificante magari in una città come Roma, cioè uno ha due effetti secondo me molto positivi. Uno, diciamo, iniziare a fare un lavoro per danneggiare l'immagine di Enel a livello, l'immagine pubblica che ha Enel. E Enel, come d'altronde anche Eni, offrono di sé un'immagine di sviluppo sostenibile, di armonia con la natura, che è assolutamente falsa, e quindi è importante spiegare questo. Dall'altra parte, qui anche questo piccolo gesto, cioè un piccolo gesto di solidarietà come un presidio, le scritte che sono apparse in differenti posti sono state accolte dalla gente in mobilitazione con un enorme entusiasmo. Sì, fa bene l'entusiasmo alla lotta, no? Certamente, e quindi poi a nome della radio, a nome dei partecipanti al presidio, sicuramente esprimere e portare tutta la solidarietà alle popolazioni locali, insomma. Sì, sicuramente. Sicuramente poi noi per primi Onda Rossa terrà alta l'attenzione, insomma, visto che appunto questo discorso non si chiude qui, c'è una resistenza a oltranza, quindi manterremo alta l'attenzione su questo. Allora io ti ringrazio, ti abbraccio forte, un abbraccio anche a tutti e tutti coloro in resistenza lì. Ok, un abbraccio a tutti e tutti voi e continuiamo alla resistenza. Ciao. Dal Chimbo contro il Chimbo, contro la No TAV e contro tutto il resto. Grande, dai. Un abbraccio. Ciao. Un abbraccio, ciao. Ecco, insomma, sì, perché poi tra la settimana scorsa e questa settimana abbiamo parlato di Cile, del movimento cileno che è nato appunto in parte anche da e si è poi unito e ha continuato la propria lotta non solo per l'educazione pubblica ma anche per la difesa dei territori. Cile, che vede appunto la resistenza mapuche, che è quella che fino adesso più di tante e tante altre è riuscita a fermare la devastazione nei propri territori, così poi insomma in Latino America potremmo vedere il Perù, per non parlare dell'Argentina, e comunque laddove purtroppo ci sono grandi corsi d'acqua in un territorio come quello latinoamericano, che comunque è un paradiso di risorse del sottosuolo e non solo, purtroppo insomma questi sfruttatori si ritrovano veramente in un giardino fiorito. Sì, direi che lo scenario che tracciava il compagno, insomma, perché la costruzione di questi mega progetti per produrre energia elettrica, che non va a sostituire affatto, dice, faccio una diga idroelettrica ammesso che non comporti danni, una centrale idroelettrica, perché smetto di produrre energia elettrica con le fonti fossili, col gas, con il carbone, eccetera. E assolutamente non è così. Come diceva, questa grande produzione, la Colombia, ha già un potenziale produttivo abbondantemente superiore alle sue necessità, quindi andrà sia in esportazione e soprattutto verso l'Ecuador, sia o verso il Centro America, perché adesso c'è una linea di interconnessione anche verso il Centro America, e sia per alimentare questi grandissimi progetti di sfruttamento minerario. Insomma, la Colombia, come diceva il compagno, diventerà una miniera a cielo aperto. Insomma, ci sono tantissime concessioni per milioni e milioni di ettari, parliamo di milioni, non più di migliaia di ettari, e quindi ricordo che la Colombia, oltre al carbone, insomma, è storicamente un paese produttore di oro. I conti si fanno presto con quello. Se vedete la borsa dell'oro oggi, quanto vale all'uncia, non lo so. Se vedete quanti compro oro sorgono come funghi nella nostra città. I negozietti che aprono per Roma, insomma, i negozietti, i sciacalli che aprono per Roma, che compra vendita d'oro, eccetera, eccetera, che la gente se va a impegnare le ultime cose che gli rimangono, e quindi, insomma, proprio perché il prezzo dell'oro è salito tantissimo, magari miniere d'oro che erano state abbandonate negli anni passati perché l'estrazione sarebbe costata troppo rispetto al prezzo di mercato, oggi ritornano d'attualità. Si va a sfruttare oro anche dovendo triturare sabbia all'infinito, perché la concentrazione si è abbassata, i giacimenti non sono più ricchi come una volta, ma dato il grande prezzo dell'oro questo conviene, e per farlo serve tanta elettricità, e di qui, ecco, i megaprogetti, la sinergia tra costruire centrali elettriche e poi per diciamo fornire elettricità alle miniere. Adesso vale la pena però di dire chi li fa questi megaprogetti. Abbiamo sentito parlare di Enel e di Impregilo. Allora vale 5 minuti, 10 minuti la pena di spiegare un po' com'è il gioco delle scatole cinesi, insomma, perché qui sono proprio scatole cinesi, insomma, c'è qualcuno che possiede un altro, che a sua volta possiede un altro, che è in accordo con un altro. Allora, la centrale che si sta costruendo al Quimbo è una centrale che viene costruita formalmente per il governo colombiano dalla società elettrica colombiana che si chiama Emgesa, che è una società elettrica colombiana che ha già altre centrali come quella di Betania, che dicevo prima che è sempre sul rio Magdalena, poco a monte di quella che si vuole costruire al Quimbo. A sua volta Emgesa è di proprietà come società di una altra società che si chiama Enersis, che insieme a Endesa Cile sono le due società che lavorano molto in Sud America, hanno notevolissimi impianti di generazione elettrica, sono società elettriche tutte e due, che ce l'hanno dal Cile passando per l'Argentina, per il Perù fino alla Colombia, appunto, hanno parecchie imprese elettriche, altre società locali, stato per stato, e a sua volta queste due società, Enersis e Endesa Cile, sono di proprietà di Endesa Spagna. Come vedete com'è complicato il gioco, no? Endesa Spagna, Endesa Spagnola, che è una società spagnola nata parecchi anni fa, nata in Spagna ma che poi si è allargata nel continente latinoamericano, e è stata comprata 7-8 anni fa dall'Enel. 7-8 anni fa l'Enel comprò il 92% di Endesa Spagna, e comprando Endesa Spagna comprò le società Enersis, Endesa Cile, e quindi tutte le controllate da queste due grandi società. Ecco il gioco delle scatole cinesi. Quindi Enel a oggi è la proprietaria di tutto questo, e quindi la responsabile principale dal punto di vista proprio aziendale, anche se la costruzione la fa come società costruttrice è Emgesa della Colombia, però attraverso questo gioco di scatole poi la responsabilità di questo progetto è di Enel, e quindi Enel è una multinazionale a tutti gli effetti. Poi vediamo un attimo chi è l'Enel oggi, no? Però chi costruisce questo progetto effettivamente, chi è il costruttore di questa centrale idroelettrica del Quimbo? È un altro nome noto qui in Italia, insomma, che è Impregilo. Impregilo è una società che è il più grande costruttore italiano di opere civili, e fa di tutto, fa le metropolitane, fa le strade, fa i tunnel, fa le centrali elettriche, c'ha concessioni di ogni tipo in giro per il mondo, e anche questa è una multinazionale, cioè non è una multinazionale, è una impresa, il capitale è quasi tutto italiano, ma che opera da tanti anni all'estero. E in Colombia, per esempio, ha già costruito la centrale di Betania, che è sullo stesso fiume, sta costruendo un'altra centrale idroelettrica che si chiama Rio Sogamoso, che sta proprio sul Rio Sogamoso, che è un altro affluente di un altro grande fiume, e in Colombia stessa sta costruendo un'autostrada per un valore di più di circa un miliardo e mezzo di dollari, che è l'autostrada Ruta del Sol. Ma non si ferma qui, perché in Cile, tu citavi prima, no, i Mapuche, ecco, la centrale di Angostura che si sta costruendo in Cile la sta costruendo in pregiro, e sta costruendo, operando in Venezuela, e a Panama sta operando, ha preso in appalto un lotto per l'ampliamento del canale di Panama, in Grecia sta costruendo la metropolitana di Salonicco, poi sta in Abu Dhabi, sta in Sudafrica, sta in Cina, insomma, ecco, in pregiro è una di quelle società veramente che operano sul campo internazionale nel settore delle opere civili, e con diciamo sicuramente spregiudicatezza, perché a questo livello bisogna essere spregiudicati, aggressivi, come si dice in termini più, no? Bisogna aggredire il mercato, ecco, e in pregiro è sicuramente una di queste società, è una società di questo tipo. Ma in Italia in pregiro è anche famosa per non solo per le tantissime opere che realizza, che sta realizzando, che ha realizzato, ma anche per gli scandali a cui è andata incontro. Allora, attualmente sta costruendo la Pedemontana nel nord-est dell'Italia, è uno dei partecipanti ai lavori della TAV, ha un tronco della metropolitana di Milano, ha un tronco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ampliamento della statale ionica, insomma, anche qui in Italia in pregiro non è che si fa scappare. Adesso il ponte sullo stretto è stato, diciamo, per il momento accantonato o del tutto abbandonato, speriamo del tutto abbandonato, insomma, ma in pregiro era il main contractor, come si dice, cioè il costruttore principale, il referente principale per la costruzione del ponte sullo stretto sarebbe stato in pregiro, e negli anni scorsi in pregiro è incappata in parecchi guai giudiziari, insomma, no? Chi ricorda il passante, cioè il passante, la variante di valico del tratto ad alta velocità tra Firenze e Bologna, ricorderà qualche anno fa tutte le polemiche che ci furono per l'attraversamento del Mugello, e per la quale operò in pregiro ed ebbe una condanna di primo grado per danni ambientali. Poi tutto lo scandalo dell'inceneratore di Acerra, con ritardi e malfunzionamenti, lo scandalo dei rifiuti a Napoli, dove nel 2004 furono rinviati a giudizio i vertici dell'azienda di Impregilo, che all'epoca era Pier Giorgio Romiti, figlio del più noto Cesare Romiti, e poi l'ospedale dell'Aquila, insomma, tanto per ricordare proprio una cosa, no? Impregilo ha costruito l'ospedale dell'Aquila dicendo che era un'opera bellissima, l'ospedale dell'Aquila è crollato col terremoto, è uno di quelli che è crollato con il terremoto. Questo per dire, insomma, chi sono gli attori in questo progetto del Kimbo, no? Siamo partiti da qui, ma poi arriviamo necessariamente a parlare degli attori e dell'Enel, di cui poi parleremo nella seconda parte, di quello che fa in Italia. Oggi dobbiamo pensare all'Enel non più come a quella vecchia società, quel vecchio ente pubblico che aveva iniziato nel 1962, insomma, lo spot pubblicitario che prima veniva richiamato dell'Enel dice 50 anni, siamo con voi, no? Tutte queste belle cose familiari, questo spirito così, insomma, ecco, non è più quell'Enel là, insomma, non perché quella fosse un esempio di lungimiranza, di equità, di giustizia, eccetera, eccetera, ma certamente aveva un atteggiamento diverso da quello che c'ha l'Enel di oggi. L'Enel di oggi è una multinazionale a tutti gli effetti, perché opera appunto in tantissimi paesi, ha più dipendenti all'estero di quelli che c'ha in Italia. In Italia c'ha 37.000 dipendenti, all'estero ce n'era 41.000, proprio perché ha comprato, ha fatto shopping, come si dice, no? In giro per il mondo, e ha comprato una serie di società. Il più grosso acquisto è quello di Endesa Spagna, che ha portato con sé la dote di tutto il Sud America. Poi ha comprato una società elettrica in Slovacchia, comprando anche dei bidoni nucleari, cioè delle vecchissime centrali nucleari. Quindi molti di questi acquisti si sono rivelati anche sbagliati, per non dire fallimentari. Insomma, le stesse agenzie di rating hanno declassato il titolo Enel. Oggi, per darvi un'idea, insomma, il titolo Enel vale circa 3 euro, 3 euro e mezzo, intorno ai 3 euro come valore. Quando l'Enel fu privatizzata e messa in borsa, il titolo Enel valeva 8 euro, quindi è quasi siamo arrivati quasi a un terzo di questo valore, no? Tanto per dire poi queste grandi strategie di questi grandi manager dove portano certe aziende. Ma poi, insomma, l'Enel si è allargata oltre che in Spagna, Sud America e Slovacchia, si è allargata in Romania, in Russia, in Bulgaria, ha centrali un po' dappertutto, in Marocco. Insomma, tipicamente il lavoro che fa una multinazionale. Quindi aggredire i mercati, speculare laddove è possibile in tutti i sensi, e quindi in questo rientrano certamente progetti che magari un tempo sarebbero stati messi da parte, come quello di Elkimbo, insomma, proprio perché risultanti problematici. Oggi invece la speculazione, la necessità di fare profitto spinge affinché si prendano in considerazione anche questi progetti. Io poi, prima di passare magari a parlare dell'Enel in Italia, insomma, no, magari o ci interrompiamo oppure... Sì, facciamo una pausetta e poi apriamo un po' così questa scannerizzazione dell'Enel un po' a casa nostra, visto che appunto forse ci aiuta a prendere coscienza di più e quindi anche a desiderare di muoverci. Come diceva Bruno, anche un piccolo presidio poi riesce a fare la sua parte. Allora io vi lascio con un po' di musica e poi torniamo in voce. 1, 2, 3, 1, 2. Él es de una especie irreverente que detesta la solidaridad. Le gusta estremecerse en esa ciencia de darse todo en contra de los demás. Carga un gesto promedio entre rudo y cordial. Simula ser hombre de mundo para humillar de local. Se amaca esquivando el centro, pendula por la extremidad, y en cuanto se queda quieto, se empieza a incomodar. Cualquier indicio de brillo, él cree que es superstición. Con tal de no conectarse, esquiva cualquier emoción. Y no está solo, no está solo, no está solito. Buscando una ropa, una capa, una armadura celestial, o algo que lo recubra, lo distinga de los demás. Siempre y cuando lo esconda de la mirada fatal, no vaya hacer cosas que sepan que te puede llegar a engañar. Camina entre cardos y espinas, el hielo o hirviente carbón, y duerme en cama de clavo. Disfruta de cualquier dolor, piquetes de ojos, rencores de toda la sociedad. Sospecha que todo conspira en contra de su humanidad. Y no está solo, no está solo, no está solito. Tiene muchos amiguitos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la hormigas obreras para probar su camión. Cuando se arrima a ellos, humilde como para ayudar, los mira como desde lejos, como si fueran de otro lugar. ¿De qué vale su intransigencia? ¿De qué le vale pelear contra las injusticias del mundo, contra toda la inseguridad? ¿De qué le vale sus armas, la sugestión de su voz, si todos sabemos que esconde un pobre y débil corazón? Y no está solo, no está solo, no está solito. Tiene muchos soldaditos. Ecco, allora, anche per insomma non far di questa trasmissione una cosa infinita, insomma, anche perché voi possiate mantenere alta l'attenzione su quello che stiamo dicendo, torniamo in voce. E appunto, Giorgio, così fai un po' un'analisi invece del chi è nella casa nostra, oltre a colleghi che ci strozzina. Soprattutto come si comporta, no? Oltre che a strozzinarci con le sue belle bollette bimestrali. No, diciamo, torniamo appunto a quello che dicevo prima. Forse molti di noi sono rimasti con l'immagine della vecchia Enel, no? E la vecchia Enel era quella mamma madrigna che badava un po' a tutto, grosso modo, anzi sicuramente, distacchi di energia, blackout come ci fu nel 2003, insomma, che ci fu un blackout totale in tutta Italia, che fu letteralmente una vergogna e che l'inchiesta che c'è stato ha praticamente assolto tutti e non ha individuato delle responsabilità vere, reali, insomma, nell'Enel e nelle altre società elettriche, perché ormai il mercato italiano è un mercato aperto dove esistono più players, come si dice, cioè più fornitori di energia elettrica, più società elettriche. Però resta il fatto che l'Enel è comunque la società principale e soprattutto lo è dal punto di vista della distribuzione di energia elettrica, cioè in Italia mentre si è consolidato un forte raggruppamento di imprese che producono energia elettrica, quindi produttori di elettricità che hanno centrali elettriche di vario tipo a combustibili fossili, idroelettriche o anche ultimamente parecchie centrali cosiddette a energie alternative tipo eolico o solare, nel settore della distribuzione, se togliamo alcuni grandi centri urbani come Roma, come Milano e pochi altri per la verità, la gran massa della distribuzione di energia elettrica è ancora nelle mani dell'Enel, e proprio questo deve far riflettere su come è oggi il servizio, perché poi diciamo l'utente si accorge della qualità del servizio se l'energia elettrica non gli fa sbalzi di rete per cui i computer ballano o lo stesso televisore c'ha problemi, se non ci sono distacchi, interruzioni nella fornitura eccetera eccetera, oltre al fatto ovviamente quello che ci tocca di più, che è quello delle bollette, ma insomma sulle bollette non è solo la responsabilità dell'Enel, il sistema tariffario in sé, però viceversa per quanto riguarda il servizio della distribuzione direi che ancora l'80% degli utenti italiani sono serviti dall'Enel come distribuzione, insomma, no? Poi c'è ancora una c'è poi una fetta, insomma, che va a Roma, c'è la CEA per capirci ormai, no? Che distribuisce energia elettrica, e così a Milano c'è l'azienda elettrica municipalizzata che poi insomma è diventata anch'essa una grossa società come la CEA, perché si è consorziata con Brescia, con altre e così via, in Emilia c'è l'ERA e via dicendo, però insomma il grosso della distribuzione è ancora in mano all'Enel, e abbiamo visto di che tipo di servizio oggi l'Enel è in grado di fornire, perché sono bastati qualche giorno di neve, anche se è stata copiosa e abbondante, ma per mandare fuori servizio tantissime linee elettriche in tutta Italia, E non si tratta delle linee elettriche di grande trasmissione, quelle che trasportano energia da una regione all'altra. Sono andate fuori servizio proprio le linee di competenza dell'Enel, quelle di media tensione o di bassa tensione, per cui nella giornata del 4-5 febbraio abbiamo assistito a, oltre alle abbondanti nevicate, a distacchi generalizzati di energia elettrica, con interi comuni al buio. Insomma, comunicati ufficiali della stessa Enel hanno parlato di 160.000 utenze, soprattutto nel centro-sud, che sono rimaste senza luce, e alcuni sono rimasti senza luce per alcuni giorni. E alcuni giorni senza luce ha significato, è facile immaginarlo, che non funziona il riscaldamento, perché le case hanno riscaldamento autonomo, che non c'è l'illuminazione, che non funzionano tante altre cose, come per esempio le pompe. In alcuni casi i comuni sono stati ridotti anche senza acqua, perché l'acqua nelle abitazioni, l'acqua dell'acquedotto comunale comprensoriale a quello che è, funziona con delle pompe. Se manca l'energia elettrica non funzionano le pompe. Allora qui il discorso si fa evidentemente ampio, no? Però per rimanere all'Enel, perché succede questo? E vi posso garantire, insomma, che non succedeva prima. Non succedeva prima perché? Perché con la privatizzazione c'è stata una ristrutturazione tremenda dell'Enel. L'Enel aveva come punta massima arrivata a 105.000 dipendenti, ma nel 96-97, quando è stata privatizzata, c'aveva ancora 94-95.000 dipendenti. Oggi l'Enel ha 40.000 dipendenti. È vero che non ha più tutte le centrali di produzione che aveva prima, ma il grosso della distribuzione gli è rimasto. E allora, se 15 anni fa avevano impiegati nella distribuzione 50.000 dipendenti, quasi tutti operai, la gran parte erano operai delle squadre che andavano in giro a fare manutenzione, allacci, a sostituire le linee, le cabine elettriche, eccetera, oggi in distribuzione c'ha 25.000 dipendenti, cioè la metà. E con la metà del personale non si fa a giorno. È chiaro che quella che viene spacciata per emergenza, emergenza non è, ovvero la si fa diventare perché si riduce il personale, si vuole mantenere lo stesso servizio con la metà del personale per risparmiare i costi, fare più profitti per gli azionisti, il solito discorso. Quindi con la metà del personale è chiaro che non ci sono più le manutenzioni programmate, non ci sono più gli interventi straordinari. Non c'è più un criterio e quindi anche la conoscenza di saper costruire cabine che nelle zone che si sa che nevica, magari non nevicherà come l'ultima volta, ma nevica solitamente, nevica e gela, le cabine in pianura sono diverse dalle cabine di montagna. In montagna le cabine devono essere fatte in modo tale che se la neve si accumula gli operai ci devono entrare comunque, non devono aspettare lo spalaneve. E quindi sono cabine progettate apposta in modo che ci sia un'apertura superiore oltre quella normale in basso, proprio perché se si accumula neve si entra dall'apertura superiore, cose che non si fanno più, come non si fa più il deghiacciamento delle linee. Oggi abbiamo sentito dire da tutti i telegiornali che le linee elettriche sono andate fuori servizio perché il ghiaccio, la neve che si è posata sui conduttori elettrici, poi ha ghiacciato, si formano dei veri e propri manicotti di ghiaccio che pesa il ghiaccio, e basta un po' di vento perché magari si stacca letteralmente l'isolatore dal traliccio e quindi la linea va fuori servizio. Beh, era prassi normale dell'Enel pubblica che quando erano i periodi di gelata si staccava un tratto di linea soggetto a queste cose, a turno se ne faceva un po' per tutte le linee di media e bassa tensione, si staccava la linea, si mettevano in cortocircuito le due fasi, in operazione semplicissima che non costa niente, e il fatto stesso di metterlo in cortocircuito staccava il ghiaccio dalle linee e quindi impediva poi questi disservizi. Tutto questo non si fa più e non si sa, e quello che si perde non sono solo le ore di luce, di mancanza di energia elettrica per la popolazione, per gli utenti, insomma, no? E quindi disagi, il freddo, tutte queste cose qui. Quello che si perde come patrimonio collettivo è anche un sapere, una conoscenza, insomma, no? Sapere come si fanno le cose e la capacità di intervenire. Qui non c'è più capacità di intervenire, qui abbiamo visto che negli interventi straordinari che l'ENEL ha vantato erano tutte imprese appaltatrici la maggior parte, perché l'ENEL non ha ridotto tantissimo il personale. E quindi alla fine, quando ti trovi in questa situazione di emergenza, allora chiama quello, chiama quell'altro, perché tu non hai, primo, più le persone che lo possono fare, secondo, quelle che lo possono fare non hanno più le conoscenze perché l'hai mandate fuori dall'azienda con l'esternalizzazione e hai appaltato tutto, e quindi la perdita generale di conoscenza di queste cose fa sì che una normale nevicata, o anche se è una nevicata eccezionale, insomma, non dovrebbe impedire né ai treni di funzionare, e questo è un altro scandalo, un altro capitolo, ma soprattutto non dovrebbe impedire l'erogazione dell'energia elettrica agli utenti in zone in cui normalmente si sa che può nevicare, e quindi, insomma, tutte le programmazioni tecniche di manutenzione che normalmente si fanno dovrebbero essere all'altezza di queste situazioni. Quindi impariamo a capire che oggi l'Enel che abbiamo di fronte è l'Enel che preferisce investire i soldi in un progetto come il Kimbo, speculativo, dannoso per l'ambiente, dannoso per le popolazioni, a migliaia di chilometri di distanza, perché ormai è proiettata sul mercato delle multinazionali dell'energia, piuttosto che mantenere un servizio efficiente agli utenti domestici del paese principale in cui opera, insomma, no? E quindi le due cose vanno di pari passo, insomma, tutto questo poi per dare un profitto effimero, perché come dicevo le quotazioni dell'Enel non sono affatto in ascesa, anzi sono da parecchio in lenta ma costante caduta, e quindi tutto questo non premia né gli azionisti, ma ce ne potremmo altamente fregare di premiare gli azionisti. Quello che dovrebbe interessare a un governo, a una popolazione soprattutto, è che i servizi pubblici funzionino in qualche modo, e sicuramente tra questi c'è quello dell'energia elettrica, direi. Io non so quanto vogliamo andare avanti ancora, direi che abbiamo dato una quantità di dati importante, abbiamo svelato anche tante cose che, insomma, difficilmente poi si riescono a scoprire se non appunto abbiamo chi ci leva il velo che ci inganna davanti. Io, chiudendo, direi che chiudiamo qui, insomma, non so se poi Giorgio altre cose da dirci. Io quello che vi posso aggiungere è che entro stasera troverete sia la corrispondenza che abbiamo fatto poc'anzi con il presidio sotto l'Enel, sia questo redazionale sul sito di Onda Rossa, la pagina www.ondarossa.info. A me non mi rimane che ringraziare Giorgio, ringraziare tutte e tutti voi che siete stati all'ascolto, e allora continueremo tra un pochino con un po' di musica per poi dare il mixer invece a Profondo Rosa. Aguántame nomás un minutito, te voy a contar un problema. Yo tengo esposa e hijitos, su pancita tengo que llenar. Me quieren echar si no pago, debo 4 meses, no llego ni a palo. Te juro, soy buen argentino, aquí no hay respiro, es para llorar. Chupete con su chantonito que posa Miami con esa Shakira. Y sigue el dolor de los chicos que a los muertos tienen. Encuentro por allá y millones de tragedias, mucha bronca por aquí, un balazo por allá. Voy a quedarme en el horno de esta tierra huérfana de amor. Sí, sí, ya estoy con vos. No, no, más que sé yo. Sí, sí, sí, sí, ya estoy con vos.